already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Sono un tipo poco raccomandabile. Ho ammazzato gente in guerra, mi ubriaco spesso e sfascio tutto quello che mi capita a tiro. Quindi non ho pretese da avanzare, ma anche tu devi ammettere che non mi dai più buone carte da diverso tempo. Ho l'impressione che tu abbia organizzato la mano in modo che io non possa vincere. In galera o in libertà, leggi, regolamenti, padroni. Ma dato che tu mi hai fatto così, vuoi dirmi dove posso sistemarmi? Paul Newman mi ha insegnato come si pulisce un cetriolo. Le mie abitudini alimentari sono state così disastrose per tanto tempo che non avevo la più pallida idea di come si preparasse un'insalata decente. Così, quando l'uomo che ha totalizzato 250 milioni di dollari in beneficenza grazie alla linea di condimenti che portava il suo nome, nel lontano 1986 mi chiese di aiutarlo a preparare l'insalata, io stavo scrivendo un articolo su di lui per il New York Times, pelai così male un cetriolo che lui lo gettò via e mi mostrò come si faceva. Nei giorni in cui l'America si sente ferita e tradita, mentre i capi hanno deluso la nostra fiducia e hanno messo a rischio il nostro futuro, abbiamo perduto un'icona americana che incarnava qualcosa di cui siamo del tutto accorto nell'amministrazione Bush. Umiltà, decenza, generosità e classe. Quando chiesi a George W. Bush se avesse un eroe letterario, correva l'anno 1999, lui rispose no, ma che era sempre stato attratto dall'aria di sfida di Paul Newman in Nick Manfredda. Bush voleva dare di sé un'immagine da antieroe e da ribelle, ma come presidente avrebbe saputo come atteggiarsi solo al momento delle foto di rito e mai quando autentiche calamità incombevano o ci colpivano. Newman era uno dei pochi liberal che apprezzava questa qualifica. Se l'era guadagnata quando aveva attivamente sostenuto la corsa pacifista di Eugene McCartney contro Richard Nixon. Nel 1997 gli telefonai quando scrisse una serie di articoli per The Nation, la rivista nella quale aveva anche investito dei soldi. Lui cominciò a scaldarsi parlandomi di tutta quella gente di destra che saltava fuori dalle tane, ma poi finì per fare una filippica contro i Clinton. La questione centrale è sempre la posta in palio e mai l'aspetto etico dei problemi, mi disse. In politica, come quando si trattava di corse automobilistiche, Paul sosteneva «Non puoi sperare di combinare niente se non sei preparato a fare i conti con le conseguenze». La prima volta che lo incontrai ero nervosa, perché da ragazzina ero stata innamorata di lui oltre che di William Buckley. Ci vedemmo in un ristorante dell'Upper East Side e in effetti fu lui a intervistare me. Newman, cosa pensi del disarmo nucleare? Io. Newman, come giustifichi le posizioni del Times sulla moratoria? Io. Era a disagio con l'adulazione e cercava di non atteggiarsi, sostenendo che c'è qualcosa di perverso nell'essere un attore. Consiste nel porre eccessiva attenzione nell'esteriorità. Con un ghigno da Butch Cassidy mi recitò l'epitaffio che si era preparato. Qui giace Paul Newman, morto fallito perché i suoi occhi sono diventati marroni. Non gli piaceva parlare dei suoi film, preferiva gli argomenti seri ed era terribilmente annoiato dalla moda e dalle donne che flirtavano apertamente con lui chiedendogli di togliersi gli occhiali per mostrare i suoi occhioni azzurri. Una volta, a una festa di beneficenza, un'ammiratrice gli chiese di girargli il cocktail con un dito. Newman rispose: «Ne sarei felice», ma l'ho appena tolto dalla bottiglia del cianuro. Una volta, sulla quinta strada, una ragazza favolosa se lo rimorchiò, offrendogli apertamente le sue grazie. Beh, voi penserete che io mi sia eclissato con classe come avrebbero fatto, che so, Cary Grant o Clint Eastwood, mi raccontò lui stesso. In effetti, quando quella ragazza abbordò proprio me, ovvero l'uomo che aveva interpretato Adel Selvaggio, non mi comportai né come Stalio né come Olio, ma semplicemente come la somma dei due. Quello che voleva dire è che pensava di non somigliare affatto agli splendidi personaggi che aveva interpretato. Non c'è sempre Tennessee Williams pronto dietro l'angolo a scriverti le battute. Meet the future. Do you know what you're doing? Theoretically. Don't ever hit your mother with a shovel. It leaves a dull impression on her mind. A raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing. Bene, scusate il ritardo, ma era cosa dovuta naturalmente formulare un piccolo omaggio qui da parte di Jefferson Ming nella sua compatta piccola natura, insomma, nei confronti di Paul Newman. Si sono tenuti in forma privata lunedì i funerali nel Connecticut del grande attore americano scomparso 83enne in un mare di emozione che ci è sembrato sufficiente così esprimere attraverso questo articolo in punta di penna scritto da Maureen Dowd, la editorialista regina del New York Times, un articolo intitolato Paul Mano Fredda, no? Per fare eco appunto a quel nick che resta uno degli eroi più straordinari interpretati da Paul Newman. Poi c'è tanta stampa attorno all'attore scomparso, un grande articolo intitolato a firma di Algin Armez, intitolato Titano Magnetico, per provare a dare una definizione a questa formidabile personalità di Hollywood. Ancora un articolo di Manola Dergis che comincia dicendo: Paul Newman indossò sempre il suo successo con leggerezza e altrettanto la sua bellezza. Non possiamo che condividere, ammirare e cercare di non dimenticare. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. McCain pushed for stronger regulation, while Mr. Obama was notably silent. But Democrats blocked the reforms. Loans soared. Then the bubble burst. And taxpayers are on the hook for billions. Bill Clinton knows who is responsible. I think the responsibility that the Democrats have may rest more in. E questa è l'ultima trovata, visto che siamo tornati immediatamente a parlare di presente che guarda al futuro, di elezioni americane in un'America agitata e preoccupata come non mai. Adesso cercheremo anche di capire perché siamo andati a indagare l'ultima idea che è venuta in mente alla campagna elettorale di John McCain, in questo momento in leggera difficoltà con dei punteggi nei sondaggi in calo. Hanno deciso di cominciare a usare quel testimonial che in fondo nelle ultime ore, negli ultimi giorni è stato così gentile con il candidato McCain, ovvero l'ex presidente, due mandati all'attivo, Bill Clinton, che dopo averlo invitato alla sua fondazione a parlare a New York, a Harlem, dove ha sede la sua fondazione, poi ha si è espresso in termini entusiastici nei confronti della personalità, della statura politica di John McCain, addirittura accreditando una lettura da parte dei repubblicani, dell'ala dei repubblicani incarnata da McCain, una lettura coraggiosa e attendibile della attuale crisi economica. In forma di ringraziamento è arrivato un bello spot in cui tutto a un tratto Bill Clinton si ritrova in sostanza a fare un po' di campagna elettorale a favore di John McCain. Saranno contentissimi dall'altra parte, dalle parti di Obama, dove del resto non è un mistero, insomma, che la liaison, no, il rapporto affettuoso, affettivo con Bill Clinton, francamente non sia mai decollato. Però appunto c'è la realtà che spinge, che bussa alla porta. Il Senato americano ha messo in calendario il voto sul piano Paulson per il salvataggio di Wall Street alle 19 ora di Washington, quindi quando qui sarà circa l'ora di notte, mentre due leader democratico e repubblicano alla Camera hanno espresso fiducia che siano stati fatti progressi per consentire l'approvazione complessiva di questo benedetto pacchetto. Ormai sembra che sia sempre sempre stato qua sul tavolo, questo famoso pacchetto dei 700 miliardi di dollari con cui Bush sta cercando, sta provando, sta tentando, suppone di tirar fuori dai pasticci Wall Street. A parlare è stato il leader della maggioranza alla Camera, Steny Hoyer, che ha detto: penso che il Senato possa avere i voti e penso che dunque passerà. E il suo collega Roy Blunt, whip repubblicano, si è in pratica il coordinatore del gruppo parlamentare, si è detto rassicurato dal fatto che il testo presentato ora al Senato sia stato emendato in modo da rispondere meglio alle preoccupazioni di un'ampia fascia degli elettori. Però queste sono sempre dichiarazioni così di forma, di facciata. Poi stanotte vedremo come va veramente a finire, ma insomma sembra che le indicazioni siano positive. Tra l'altro si è cercato di anticipare al massimo il voto ieri. Si è messa pressione anche sulla Camera, ancora vuota per la festa ebraica di Rosh Hashanah, e si è messo in agenda appunto il voto dopo il tramonto di oggi, non appena diciamo la forma lo permetteva. Nel frattempo disastroso il posizionamento di George W. Bush nel gradimento degli americani. Siamo al minimo storico, secondo un sondaggio Gallup siamo arrivati al 27%, più volte Bush era stato dalle parti del 28, al 27 non c'era arrivato mai, ce l'hanno spinto adesso Lehman Brothers e altri marchi consimili. Si pensa, la gente si dice convinta che l'inquilino della Casa Bianca abbia gestito non bene la crisi finanziaria. Anzi, per gli americani Bush sarebbe il maggiore responsabile della crisi. Il 25% ritiene che la colpa vada addossata al numero uno della Casa Bianca, secondo un sondaggio ABC Washington Post. Poi c'è una classifica di possibili responsabili, insomma ve li diciamo per documentazione, ma sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano. Le istituzioni finanziarie 18%, il Congresso, il Governo federale 8%, di fatto l'aria che tira, come dicevamo, è tutt'altro che buona. Ci sono Nancy Pelosi e Harry Reid, i leader democratici della Camera e del Senato, che si stanno impegnando, insomma, dopo la infelice uscita della Pelosi, che da alcuni è stata individuata come responsabile dello stop del primo tentativo del famoso pacchetto di aiuti. Adesso Pelosi e Reid lavorano insieme, lo fanno anche sapere, lavorano anche in chiave bipartisan con i repubblicani per fare in modo che il pacchetto passi. George W. Bush in persona è al telefono, telefona a tutti i riottosi che potrebbero essere convinti. Si cerca di chiudere la partita, insomma, in modo perlomeno dignitoso. Intanto i sondaggi danno un avanzamento piuttosto compatto delle posizioni di Barack Obama, quando ormai manca un mese e poco più alle elezioni. 4 novembre è la fatidica data. Florida, Ohio e Pennsylvania stanno progredendo in favore di Barack Obama. In Florida si parla addirittura del 51 contro 43%, che è un dato eccezionale, mai arrivato da queste parti, Barack Obama. In Ohio addirittura 50 contro 42, 54 contro 39 di McCain. In Pennsylvania sono numeri da favola per Barack Obama, soprattutto se paragonati con quelli di qualche settimana or sono. Tutto ciò mentre naturalmente siamo alla vigilia. Domani notte si terrà, anzi questa notte, no, domani notte, giovedì notte, certo, si terrà il debate, il dibattito, il secondo dibattito della serie di quattro. Questa volta tocca ai vicepresidente in pectore, ovvero a Joe Biden e a Sarah Palin, scontrarsi in quel di St. Louis, Missouri. E l'ultima notizia che voglio darvi riguarda il moderatore, anzi la moderatrice del dibattito in questione. È una giornalista della PBS, del servizio pubblico radiofonico, tiene un programma settimanale che si chiama Washington Week, si chiama lei Gwen Ifill, e si è scoperto, insomma, non ha fatto un figurone, si è scoperto che ha in uscita un bel libro dedicato a Barack Obama, un libro che dovrebbe gettare una nuova luce sull'ascesa di Barack Obama Obama e comunque sul ruolo dei politici neri negli ultimi anni della politica americana. La cosa naturalmente non ha fatto altro che innervosire moltissimo il campo repubblicano, che dice, ma insomma, in un momento così grave, una improprietà, una imprudenza come scegliere come moderatrice di un dibattito difficile come quello tra Biden e la Palin, una moderatrice per l'appunto che potrebbe essere assai sbilanciata, anche perché tra l'altro di pelle nera, anche questo è stato ipotizzato, è stato un tocco non di classe alla campagna elettorale, dove ormai, però l'abbiamo già detto, il gioco si è fatto duro e sapete a chi tocca giocare. You say you want a revolution, well, you know. Candidati che corrono per la prima volta, sapete, questa è una elezione atipica, insomma, sono molti anni, una cinquantina d'anni che non c'erano due candidati nuovi di zecca a disputarsi la Casa Bianca, Obama e McCain. Ce n'è invece uno che ormai è di lungo corso, anche se la poltrona a cui punta è leggermente meno prestigiosa, ma poi non tantissimo. Parliamo del sindaco di New York, Michael Bloomberg, che parrebbe intenzionato a ricandidarsi per un terzo mandato. Dovrebbe annunciare in queste ore l'intenzione di farsi eleggere per la terza volta, secondo quanto direbbero persone ben informate sui suoi piani. Bloomberg cercherà di modificare dunque la legge che al momento non permetterebbe ai sindaci della Grande Mela di servire per più di due mandati. La crisi naturalmente è sempre al centro delle motivazioni, no? C'è una crisi finanziaria che destabilizza non solo l'America, ma in particolare New York, in particolare quel quartierino che si chiama Wall Street. Meglio andare sul sicuro con uno che la sa lunga. Prima pagina. Veniamo invece alle notizie di competenza cinese. Dunque, il latte contaminato alla melamina dalla lontana Cina è arrivato anche alla Camera, nel senso alla Camera italiana a Montecitorio, perché oggi nel Question Time... Non al bar. Ne ha parlato il nostro ministro del welfare, che ha anche competenza sulla salute, quindi era chiamato in causa, certo, di diritto, Maurizio Sacconi, che ha illustrato le misure adottate nel nostro paese di fronte a questa emergenza, che poi non è stata così clamorosa, perlomeno alle nostre latitudini. Dunque, ci sono stati controlli nei negozi etnici, controlli sulle materie prime e sui prodotti per i bambini, sequestro di latte e distruzione dei prodotti a rischio. Tra l'altro Sacconi ha ricordato che i controlli effettuati dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo su 12 campioni di latte per la prima infanzia sono risultati tutti negativi, quindi risultati brillanti da questo punto di vista, non ci sono contaminazioni alla melamina. E inoltre Sacconi intende proporre a livello comunitario un rafforzamento dei controlli, leggo testualmente, estesi a tutti gli alimenti non animali allo scopo di avere una maggiore efficacia per la tutela sanitaria su tutti i prodotti provenienti da paesi terzi. E intanto a Pechino, secondo quello che è l'abituale refrain da queste parti, ogni volta che lo dici mi viene nostalgia, ti emoziona. Intanto a Pechino sono stati resi noti i risultati finali dell'inchiesta proprio condotta sul latte contaminato. Alla fine sono 31 i prodotti incriminati, trovati insomma in difetto a base di latte in polvere. I controlli sono stati massicci, perché sono stati passati al vaglio 265 prodotti di 154 compagnie impegnate naturalmente nel settore, che ricoprono una quota complessiva del 70% del mercato nazionale di latte in polvere, quindi possiamo essere abbastanza sicuri, insomma, dei risultati. 31 prodotti non sono poi neanche pochissimi. E infine, tracce di melamina sono state scoperte anche nei biscotti cinesi venduti in Olanda. La ditta ha un nome cinese inconfondibile, la marca si chiama Koala, e quindi pericolo anche per gli olandesi. Nel frattempo la Russia ha vietato le importazioni di tutti i prodotti cinesi contenenti latte, così non ha badato, insomma, a controlli, non è andata per il sottile e ha scelto questa linea piuttosto dura. E come sono dure anche le parole del capo dei servizi sanitari russi, che dice: una situazione vaga e l'assenza di una posizione ufficiale dello Stato cinese. Questo va detto, insomma, la Cina non ha detto parole chiarissime, certo, fuori dai suoi, certo, confini. Tutto questo ha costretto, dice, tardi, certo, la Russia ad adottare misure estreme e vietare così tutti i prodotti alimentari importati dalla Cina e contenenti latte. What are you changing? Who do you think you're changing? You can't change things, we're all stuck in our ways. It's like trying to clean the ocean. What do you think you can drain it? Well, it was poison and dry long before you came. But you can wait. With their suspect lives, we look the other way. Are you really that pure, sir? Thought I saw you in Vegas. It was not pretty, but she was. But she will wake up wealthy. And you will La televisione rimanda le immagini di Sarah Palin e di Joe Biden. Stanno scaldando i muscoli per il dibattito alla Washington University, St. Louis, Missouri, stanotte, e vedremo cosa ne uscirà. Potrebbero, come si dice, uscirne delle belle, perché insomma i due personaggi sembrano entrambi così volenterosi ma un tantino imperfetti. Staremo a vedere. E invece adesso facciamo un piccolo viaggio, diciamo, nel concetto del facciamo a fidarci, no? Naturalmente è un'angolazione, parlando sempre di crisi finanziaria americana e non solo, che da qualche giorno volevamo battere. Adesso la percorreremo insieme al nostro amico, nonché frequente ospite, Giuliano Noci, e andremo un po' a capire che aria tira fra Stati Uniti e Cina in relazione a questa crisi. Innanzitutto saluto Giuliano, buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Ricordo i nostri ascoltatori, Giuliano Noci è un docente di marketing al Politecnico di Milano e un conoscitore, nonché della Cina, nonché attivo su vari fronti, di cui magari più tardi ricorderemo anche qualche nuovissima iniziativa nella lontana Cina. Ma però prima, Giuliano, io vorrei partire da una prestigiosa intervista che Newsweek pubblica questa settimana. Ha accettato di farsi intervistare da Newsweek Wang Jiabao, il primo ministro cinese. Ha concesso la sua intervista a Fareed Zakaria, al principale editorialista del giornale. E l'intervista, che devo dire non è che sia proprio un pozzo di rivelazioni formidabili, Wang Jiabao si è seduto lì e ha detto le sue cose, insomma, con molta calma, molta tranquillità e e molta forma, diciamo così. Ha recitato la lezione. Ha fatto la sua lezione. Però a un certo punto, anzi, nel calore delle prime domande, prima che la cosa diventasse un po' di routine, naturalmente Zaccaria gli ha fatto la domanda chiave, no? Che più o meno suona così. I cinesi hanno tra le mani qualcosa che è un trilione di dollari dei buoni del tesoro americano. Che uso vogliono farne? Sono preoccupati? Stanno tranquilli? Che aria tira? La risposta di Wen Jiabao è stato quanto di più tranquillizzante possibile. Wen Jiabao ha detto che il governo cinese spera di vedere sviluppo in America, perché lo sviluppo in America significa sviluppo in Cina. Siamo preoccupati per la sicurezza dei soldi cinesi investiti in America, ma siamo sicuri che gli Stati Uniti sapranno, essendo un paese credibile, sapranno uscire dalle difficoltà che peraltro delle quali già sentiamo l'eco anche dalle parti nostre. Se serve una helping hand, una mano d'aiuto, siamo pronti a stabilizzare la situazione, siamo pronti a darla, insomma, e conclude dicendo: io sono convinto che la cooperazione sia tutto. E insomma, è una dichiarazione molto dolce. Noi eravamo abituati a muoverci, non so, per le strade di Washington e a sentir parlare dei cinesi un po' come gli Apache, insomma, bisognava stare attenti. Invece mi sembra che almeno su questo fronte tiri un'aria rassicurante. Che ne dici? Assolutamente sì, direi che addirittura è sconcertante sentire Wen Jiabao che nella stessa intervista dice che l'economia americana è basata su solide fondamentali. Devo dire che viene da sorridere. Comunque le due grandi superpotenze sono strettamente interrelate a doppio filo. Primo elemento, ricordiamoci che il boom dell'economia cinese deriva dalla capacità di esportazione che hanno saputo realizzare in quest'ultimo decennio, e il principale mercato di sbocco della produzione cinese sono proprio gli Stati Uniti. Certo. In questo senso la Cina non può prescindere dagli Stati Uniti, mentre in questo momento può fare, tra virgolette, un po' a meno dell'Europa. I flussi di esportazione verso l'Europa non sono sicuramente così significativi. Ricordo che dal 1980 ad oggi la bilancia commerciale Cina-Stati Uniti è passata da 100 miliardi di dollari a oltre 300 miliardi di dollari, un incremento stratosferico. Quindi Wen Jiabao un minimo di preoccupazione ce l'ha se l'economia americana cala. Secondo elemento. Ma che cos'è questa mano che aiuta da parte cinese? In che cosa potrebbe consistere? Prezzi più bassi? Non credo, insomma. No. Di che cosa parla? Wen Jiabao ce lo fa capire in questa intervista. Evitare il panic selling che potrebbe essere inevitabilmente indotto dai cinesi. I cinesi possiedono ben 922 miliardi di dollari, certo, di titoli di Stato e obbligazioni americane. Dopo il Giappone sono i principali azionisti del governo americano. In questo senso loro cosa potrebbero tranquillamente fare? Vendere queste obbligazioni sul mercato e innescare una crisi. E affondare l'America. Certo. Affondare l'America. Per il motivo che abbiamo detto poc'anzi, certamente alla Cina non conviene. Vi è un secondo elemento estremamente rilevante da cui non possiamo prescindere. Vi sono fortissimi interessi comuni Cina-Stati Uniti su tutto il discorso del petrolio. Anche qui sono dei voraci consumatori, gli Stati Uniti anche produttori di petrolio. In questo senso un'alleanza tra le due superpotenze certamente è un elemento che giova a entrambi. Da ultimo, la lascio sullo sfondo, Stefano, per i nostri radioascoltatori, c'è probabilmente l'interesse da parte di questi due paesi di evitare che l'Europa, l'Unione Europea, giochi in questo momento in chiave opportunistica. Il modello americano, la crisi finanziaria, la più grande dopo il 1929, dimostra che non può essere più considerato come lo stereotipo di riferimento, l'archetipo di riferimento. La Cina è consapevole che non è in grado in questo momento di rappresentare un punto di riferimento in termini di modelli di sviluppo per il mondo, allora a questo punto potrebbe comparire l'Europa. Allora credo che Cina e Stati Uniti a tenaglia abbiano la convenienza di giocare per tenere calmo Sarkozy, che già sabato si agita per convocare, certo, i governi degli Stati membri dell'Unione Europea. L'Unione Europea che rischia di essere ancora una volta messa in disparte e di non giocare un ruolo come potrebbe fare. Il favore che la Cina in questo momento fa agli Stati Uniti è di star ferma, in sostanza, questa è la mano che aiuta. Il favore è di stare ferma e quindi di non mettere sul mercato questa enorme quantità di titoli di che detiene. Peraltro la banca della Cina, the Bank of China, aveva già dato segnali di conoscenza, di intuizione, di preoccupazione nei confronti della crisi. Sembrerebbe che ci sono arrivati quasi prima, insomma. Me lo confermi? Assolutamente sì. Diciamo che già a giugno i nostri amici cinesi avevano intravisto in Fannie Mae e Freddie Mac, cioè avevano visto puzza di bruciato. Del marcio, certo. E Bank of China negli ultimi mesi ha venduto 10 miliardi di bond, complessivamente di obbligazioni sui due colossi USA, ma quello che è più importante è che le altre banche di Stato, le altre quattro banche di Stato hanno fatto la stessa cosa. Quindi, come dire, stanno attenti, non vogliono fare panic selling, ma sulle attività più a rischio, quindi nei confronti di quelle agenzie che avevano questi prodotti strutturati estremamente rischiosi, ne stanno uscendo, giusto per salvaguardare quella che è la loro liquidità e quelli che sono i loro investimenti. Oh, sempre in questa intervista pubblicata da Newsweek c'è un altro aspetto un po' particolare, un po' sorprendente, su cui spendere due parole. Wen Jiabao, a fianco, insomma, all'orgoglio di essere il primo ministro di una nazione di questa portata, però tende a buttare molta acqua sul fuoco, si direbbe, quando il suo intervistatore lo stimola sulla questione della leadership cinese ormai consolidata nel pianeta, al punto di farne una nazione guida, al punto di farne forse un nuovo punto di riferimento per il XXI secolo, lui tende a frenare ripetutamente, insomma, certo non si comporta in questo senso in modo arrogante, ricorda la natura eminentemente contadina del paese, insomma tende un po' a spingere sul freno. Hai avuto questa impressione? Sì, devo dire peraltro che questa è una costante della politica estera, della politica internazionale, dei governi cinesi che si sono susseguiti. Totale understatement. Certo. Ricordo ai radioascoltatori che tutta l'opinione pubblica internazionale è rimasta costernata a seguito dell'imprevista quando è entrata nel World Trade Organization, nel WTO, nell'ultima seduta di Ginevra di giugno di quest'anno. Tutti siamo rimasti sorpresi perché l'ambasciatore cinese, il rappresentante del governo cinese, è stato colui che è uno dei due soggetti che ha fatto fallire il negoziato. È stata la prima volta che la Cina ha adottato un atteggiamento un pochino arrogante. Quindi l'atteggiamento di Wen Jiabao in questa intervista al Newsweek è da ricondurre alla tradizione. Direi anche, Stefano, che qualche problemino interno lo devono gestire da un punto di vista economico. Se ci sarà tempo ne parleremo. Sì, ne parleremo. Per esempio ci sono una serie di domande formulate dal giornalista al primo ministro sul Tibet, delle risposte su cui sarà interessante parlarne in un prossimo appuntamento. Però Giuliano, so che sei in partenza per una nuova missione in Cina, una missione tra l'altro ha anche un aspetto di formazione, mi sembra interessante. Dici qualcosa rapidamente. Sì, stiamo partendo per la Cina, andiamo a Shanghai, andiamo con gli amici di Acer Group, che è il secondo gruppo che riassembla personal computer e notebook, certo, per fare una cosa interessante, per andare a costruire un'alleanza con una delle più importanti imprese cinesi e supportare questa grande corporation nel recupero di talenti. Ricordo ai radioascoltatori che... Che vuol dire recupero di talenti? Esatto, che in Cina in questo momento uno dei più grandi problemi è quello di avere laureati qualificati, manager qualificati, gente fedele all'azienda. In questo senso il rapporto con l'università rappresenta una priorità importante e in questo senso il nostro Politecnico agisce in piccolo come ambasciatore di un'impresa multinazionale che vuole costruirsi un sistema di alleanze privilegiato per reclutare giovani potenziali per il futuro. Grazie a Giuliano Noce. Like the Ecco, dunque, altra storia, tutt'altro che nuova, però qui dalle parti di Jefferson Ming l'abbiamo seguita a più riprese, ma la riprendiamo in mano perché si stanno muovendo, diciamo così, i pezzi sulla complicata scacchiera, complicatissima scacchiera, dell'aeroporto Dal Molin, la base americana a Vicenza. Sono successe delle cose, l'ultime novità risalgono a solo un paio d'ore fa, c'è un'ANSA delle 13.52 che recita: il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensione del referendum sulla base americana a Vicenza previsto per domenica. Lo rende noto l'avvocato Pierantonio Zanettin, legale del comitato favorevole all'ampliamento della base. La consultazione, ricorderete, forse era stata promossa dal comune per chiedere il parere, una presa di posizione, anche se informale tutto sommato, dei vicentini sulla acquisizione dell'area demaniale destinata alla base. Chiamiamo in causa chi ne sa più di noi e chi si muove sul territorio, ovvero Antonino Padovese, un giornalista del Corriere Veneto, per capire meglio come stanno le cose. Buon pomeriggio, Antonino. Sì, buon pomeriggio a voi. Allora, è un po' complicata la questione, soprattutto la storia di questo referendum. Te la senti di farci una mini cronistoria di che cos'era questo referendum, da cosa era spuntato e a cosa poteva servire? Beh, guarda, Achille Variati, il sindaco di Vicenza, aveva vinto le elezioni amministrative promettendo di sentire la popolazione sulla base Dal Molin. Questo è stato uno dei suoi cavalli di battaglia in una elezione che lo vedeva sfavorito nei confronti del candidato del centrodestra Amalia Sartori. Una volta insediato come primo cittadino ha subito promosso questa consultazione popolare che compare ancora oggi. Se voi cliccate sul sito del comune, questa consultazione è ancora attiva, ci sono gli orari per votare dalle 8 alle 21, ci sono i centri di raccolta dei questionari che poi tra l'altro corrispondono alle sezioni di voto dove i cittadini possono andare a tutte le elezioni. E a questa consultazione popolare i cittadini di Vicenza avrebbero dovuto esprimersi tra l'altro per la prima volta su questo progetto dell'amministrazione comunale di acquisire l'area che è stata ceduta proprio ieri dal commissario Costa agli Stati Uniti per farne che cosa? Qualcosa per un interesse collettivo salvaguardando l'integrità ambientale del sito. Questo recitava il questionario della scheda che ormai sarà stracciata. Ma perché, a parte il fatto che stanno uscendo delle agenzie estremamente decise, diciamo così, sull'argomento, c'è una dichiarazione di Vittorio Agnoletto, deputato del PRC Sinistra Unitaria Europea, che dice: siamo di fronte a un golpe con cui si cancella la democrazia, e addirittura si parla di decisione gravissima da parte del Consiglio di Stato di sospendere il referendum ad opera di Paolo Ferrero, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Quindi c'è una discesa in campo sonora, insomma, perché si è sentito il bisogno di cancellarlo questo referendum? Ma praticamente la decisione del Consiglio di Stato che non aveva un potere decisionale, ripetiamo, no? No, questa consultazione popolare no, anche perché si parla di una manifestazione popolare relativa a un atto di indirizzo, cosa che è prerogativa del Consiglio Comunale di Vicenza. Cioè, nel questionario che sarebbe stato sottoposto domenica ai cittadini di Vicenza, si chiedeva ai cittadini se effettivamente a loro pareva opportuno che il Consiglio Comunale avviasse una procedura per acquisire il terreno che tra l'altro è di proprietà ed è ancora di proprietà del demanio, quindi dello Stato italiano. Per cui nello stesso questionario si parlava di previa sdemanializzazione, quindi bisognava prima che il terreno non fosse più dello Stato italiano e poi che venisse acquisito dal comune, e nel questionario si chiedeva il parere dei cittadini sull'apertura di un iter lunghissimo così, e poi eventualmente se ne sarebbe visto l'uso. Di fatto lo aveva affermato anche il commissario per la base Dal Molin Paolo Costa ieri, quando ha ceduto il territorio alle autorità militari americane. Questo referendum sarebbe stato ininfluente, inutile, perché sarebbe stato un parere che non era previsto, diciamo, nel lungo iter che ha accompagnato e che accompagnerà tra l'altro la costruzione della base Dal Molin. Altre dichiarazioni, è arrivata quella di Giancarlo Galan, il presidente del Veneto, che dice: il Veneto del no è un Veneto minoritario, perdente e sfortunato, mentre già si annuncia la protesta del cosiddetto popolo delle pentole questa sera a Vicenza, manifestazione contro la decisione del Consiglio di Stato di bocciare il referendum. Ma una domanda che credo fuori da Vicenza molti si faranno per capire anche un po' la temperatura in città, pentole o non pentole, potrebbe essere: ma la cittadinanza, nei suoi numeri insomma che contano, è seriamente, effettivamente, emotivamente coinvolta da questa vicenda o rimane comunque una storia legata a piccoli centri di attivismo, ma che non va a toccare poi insomma il tessuto cittadino vero e proprio? No, il tessuto cittadino vero e proprio è stato toccato a lungo da questa cosa. Questo è uno degli argomenti di cui si parla più spesso a Vicenza. E infatti c'era molta curiosità per capire quanta gente sarebbe andata a votare al referendum di domenica, quanti avrebbero votato sì. C'è chi, ad esempio. Ecco, c'erano degli exit poll, diciamo così, insomma, delle previsioni, sondaggi a riguardo? No, ancora non erano state fatte, o meglio, i promotori, dunque il referendum è stato promosso dall'amministrazione comunale, però i promotori del no dal Molin dicevano che ci sarebbe stato un plebiscito, anche se alcuni erano pronti a scommettere che molti vicentini avrebbero visto con favore la nascita della base americana, con tutto l'indotto che può portare a livello commerciale, a livello anche di eventualmente turismo. Certo. Ho capito, tra l'altro è arrivata anche in questi ultimi giorni da parte di Giuseppe Ricciari del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova, fornito a Costa, appunto, un parere sulle interferenze ambientali della base. Il suo studio avrebbe escluso possibili danni alla falda acquifera profonda che non sarebbe intaccata al progetto. Questo era uno degli argomenti, no, nelle corde di chi diceva no a Dal Molin, vero? Sì, infatti è stata una delle sorprese tirate fuori ieri dal commissario Costa quando ha presentato il piano di consegna dell'area agli Stati Uniti, cioè questo studio sull'impatto ambientale che dimostrerebbe che appunto la costruzione di una nuova base non avrebbe attecchito la falda, però è stato subito attaccata questa consulenza, in quanto era stata una consulenza promossa e chiesta direttamente dal commissario del governo e quindi comunque una consulenza di parte. Va bene, grazie a Antonino Padovese del Corriere Veneto. Si parla di indignazione, si parla di autoritarismo, si parla di proteste. Vedremo la storia come si svilupperà sia sul piano locale, nei suoi echi nazionali e naturalmente andando a vedere come sempre il convitato di pietra di questa storia, ovvero gli americani, che continuano a seguirla, devo dire, in modo piuttosto silente. Ci scrive Fabio da Vicenza: la cittadinanza è a favore comunque. Jefferson Mindy oggi, io sono Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, la parte tecnica è stata curata da Alessandro Cappini a Roma, da Pietro La Corte a Milano. Potete scriverci via mail a jeffersonmindy@radio24.it. Questa puntata, come tutte, in replica stasera alle 9, podcast, tutti gli altri mezzi della modernissima tecnologia, la diretta, la semplice, indispensabile diretta, domani alle 4 qui da Radio 24. Ci risentiamo.生养性，沉默的人最聪明。